sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui dagli studi di Radio 24 di Milano in questo mercoledì 11 di febbraio. Vi dico subito che la puntata di oggi riflette su uno sviluppo di cui siamo in attesa in questa giornata, uno sviluppo importante, e riguarda la possibilità che si addivenga a un nuovo accordo sulla delicata vicenda Ucraina-Russia, un accordo di cui hanno gettato le basi in questi giorni la cancelliera tedesca Merkel e il presidente francese Hollande, e questo accordo cerca di sostituire con un passo ulteriore avanti i vecchi accordi di Minsk che sono stati travolti in questi giorni dalla ripresa dei combattimenti in Ucraina, che sono fino a questa mattina testimoniati con nuove vittime. Io non desidero entrare in questa trasmissione in una cosa che divide anche il pubblico italiano, perché so, twittando su questo argomento, che molti tra voi sono filo Putin, altri sono convinti che in Ucraina siano al governo i nazisti, eccetera eccetera. No, la faccenda è: cerchiamo di capire che cosa succede, può succedere oggi se si arriva a un accordo. Sapete che il governo americano ha avvicinato questi accordi del Minsk facendo la parte del poliziotto cattivo, per così dire, cioè intervenendo molte volte dicendo a Putin: ti stai assumendo responsabilità di sviluppi di fronte ai quali noi armeremmo ulteriormente e pesantemente, non ulteriormente ma direttamente, gli ucraini. Avete letto le dichiarazioni di vertici militari americani della NATO che dicono: i russi si preparano a un conflitto di qui a 5-6 anni. Avete letto, probabilmente chi di voi è appassionato a queste vicende, dichiarazioni di primi ministri, di membri del governo dei paesi baltici della NATO, che sono durissimi nei confronti della Russia. Ecco, allora oggi riflettiamo su queste due cose. Primo, che cosa è possibile attendersi oggi da questi accordi, e secondo, soprattutto, che cosa è possibile attendersi tenuto conto del fatto che l'Italia è molto esposta nei confronti delle sanzioni che l'Unione Europea ha assunto e che quindi abbiamo assunto anche noi nei confronti della Russia di Putin. Sapete che nel nostro paese c'è un dibattito ampio e profondo sulle conseguenze negative non solo che le sanzioni hanno nei confronti di vicende internazionali come strumento di pressione su governi. È evidente che Putin va avanti e non dà molta attenzione a questo aspetto di pressione, che pur tuttavia ha un fortissimo impatto sulla crescita russa, che è nei guai non solo per il prezzo del petrolio ma anche perché, per esempio, il sistema finanziario e bancario russo non può più finanziarsi a breve in Europa e negli Stati Uniti. Detto tutto questo, ci dobbiamo aspettare, se gli accordi di oggi non ci sono, e lo sappiamo, un ulteriore incrudimento delle sanzioni, e allora sentiremo anche chi, per rappresentanza delle intere categorie del nostro paese che intanto stanno subendo il morso delle sanzioni e delle minori esportazioni russe, che cosa ne pensa in proposito. Ma intanto cominciamo con una testimonianza che è di qualche settimana fa, del nostro Presidente del Consiglio, proprio a proposito delle sanzioni nel nostro paese. Vi ricordo che ancora stamattina c'era una dichiarazione del ministro degli esteri Gentiloni che in proposito diceva: sì, purtroppo se non c'è l'accordo di Minsk oggi andremo a nuove sanzioni, ma questa è l'opinione di Gentiloni, anche per gli interessi dell'Italia, leggo la sua dichiarazione, il terreno economico è quello più efficace per fare pressioni sulla Russia. Queste sono le parole di Gentiloni. Che cosa aveva detto intanto Renzi? Che sì. Le sanzioni possono essere state nel momento di reazione il primo naturale gesto per esprimere il profondo sdegno per l'occupazione di parte dell'Ucraina da parte della Russia, è altrettanto vero che non si fa una politica estera semplicemente basandosi sulle sanzioni. credo che questo sia finalmente patrimonio comune e condiviso di tutti. Allora, insomma, un po' un colpo a cerchio nella botte, se posso essere un po' spiccio nel commento di queste parole di Renzi. Allora, per tentare di inquadrare la situazione, in questa prima parte della trasmissione è con noi il vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, Gianni Bonvicini. Buongiorno e grazie. Buongiorno. E il presidente di Confagricoltura, Margo Guidi. Buongiorno, presidente. Buongiorno a voi. Allora, Bonvicini, innanzitutto, secondo il vostro osservatorio, che è uno, insomma, dei think tank migliori in Italia e il migliore sicuramente dal punto di vista della politica estera, di difesa e sicurezza, oggi a Minsk che cosa ci possiamo attendere davvero viste le ultime notizie? Ma diciamo che riuscire ad arrivare a un accordo è sicuramente molto difficile, anche perché le agende per arrivare, diciamo, a una conclusione di questo lunghissimo conflitto sono molto diverse. L'Ucraina, ad esempio, chiede che venga completamente ricreato l'autorità del governo sulle due regioni ribelli e vuole, ad esempio, che vengano disarmati i ribelli, che ci sia un ritiro completo delle truppe russe e così via, mentre i ribelli vogliono esattamente il contrario: la separazione del resto dell'Ucraina, il riconoscimento di due repubbliche, quella di Donetsk e Luhansk, e il non disarmo delle forze separatiste. Quindi, e naturalmente la Russia ha un altro punto di vista molto vicino a quello dei ribelli, e gli Stati Uniti e l'Europa hanno la loro agenda, che è diversa. Quindi arrivare ad un accordo è veramente molto difficile. D'altronde però non si vedono grandi alternative, cioè l'unica alternativa che si può intravedere è il congelamento, come si dice, del conflitto per alcuni anni, come è successo in Georgia, dove due regioni, l'Abkhazia e l'Ossetia, di fatto sono autonome, anche se non riconosciute dalla Georgia come autonome, e vivono dei rapporti che hanno con la Russia. Non è sicuramente la soluzione migliore. Tuttavia devo dire che questa volta l'Unione Europea ha dato una risposta molto forte, e la risposta molto forte non sono solo le sanzioni, che costano, poi ne parleremo tantissimo, ma anche il fatto di volere a tutti i costi raggiungere un accordo politico negoziato. Cioè è evidente che l'Unione Europea non ritiene la guerra come la soluzione, una delle alternative, la esclude completamente e ha una agenda politica non ben definita, ma sicuramente molto favorevole a raggiungere immediatamente un accordo politico. Se dicessi, usando una semplificazione, come tutte le semplificazioni naturalmente degli errori, ma per semplificare, se dicessimo che nell'atteggiamento di Hollande e della Merkel, quindi quello europeo, perché sono stati loro poi a prendere la questione per le corna in questi giorni, e invece quello americano, c'è anche una differenza sul fatto che l'America dice no alla variazione unilaterale dei confini di sicurezza russi, mentre l'Europa da questo punto di vista è un po' più, per come devo dire, attenta e sensibile ad accontentarlo un po' Putin, e questo è un aspetto delle divisioni tra Europa e Stati Uniti oppure no, secondo lei? Ma diciamo che sicuramente l'agenda, diciamo, politica nei confronti della Russia delle due parti non è la stessa. Gli Stati Uniti hanno un interesse relativamente minore rispetto all'Unione Europea al raggiungimento di un accordo, anche perché lo si vede dal punto di vista degli interessi concreti, che in altre parole sono l'export nei confronti della Russia. L'Unione Europea conta per 411 miliardi di export verso la Russia, mentre gli Stati Uniti solo per 35 miliardi, quindi è evidente che il peso che viene dato è diverso, ma da questo punto di vista sia Stati Uniti che Unione Europea sulla questione dei confini sono molto ambigui. Ad esempio oggi nessuno parla più della Crimea. La Crimea, che pure è stata una violazione obiettivamente delle, sì, delle regole di Budapest, a questo punto la considerano come persa, non la, neanche la citano più. E diciamoci la verità, se si considera persa per sempre la Crimea, è un po' come dire che la politica del fatto compiuto che segue Putin non ha poi così poche e scarse possibilità di andare avanti nel tempo. Però lei ha toccato un punto: la diversa esposizione alle sanzioni per il diverso peso dell'export tra Europa e Stati Uniti è un'altra asimmetria, e a molti in Europa e a casa nostra, che siamo forti esportatori in questi ultimi anni ancora di più naturalmente quando la Russia cresceva, adesso al segno meno anche lei per effetto di petrolio e sanzioni, però questa cosa va molto stretta, perché effettivamente tra le due rive dell'Atlantico c'è una compartecipazione agli effetti negativi delle sanzioni molto diversa. Per esempio, sentiamo intanto cosa ne pensa Marco Guidi, il presidente di Confagricoltura. Buongiorno presidente. Allora, voi che pensate dell'efficacia delle sanzioni e di quanto costano in questo momento al settore nostro in Italia? È chiaro che in premessa noi stessi ci rendiamo conto che la posta in palio va ben al di là dell'aspetto agricolo e agroalimentare, però vogliamo che tutti siano consapevoli che queste sanzioni hanno generato una risposta della Russia in un embargo che sta costando al settore agroalimentare europeo ed italiano in particolare svariate centinaia di milioni di euro. Per l'Italia il conto è attorno agli 800 milioni di euro, perché negli ultimi anni l'export in direzione russa era in una fase di crescita molto importante e quindi ci siamo trovati dall'agosto dello scorso anno a vedere bloccate tutti gli accordi che pian piano crescevano proprio in un momento di raccolta dei nostri prodotti, in particolare l'ortofrutta ne è penalizzata fortemente, ma ultimamente anche il settore lattiero caseario con i grandi formaggi italiani che non trovano più lo sbocco sul mercato russo. L'effetto poi viene moltiplicato dal fatto che c'è un processo di sostituzione, anche altri paesi europei che erano anche meglio posizionati dall'Italia nei confronti del mercato russo, tipo la Polonia o la stessa Germania, riversano i loro prodotti sul mercato domestico che ormai è quello europeo, facendo un effetto di concorrenza ai nostri prodotti. E quindi va tenuto conto anche del fatto che, come diceva il Premier Renzi nell'intervista che abbiamo sentito, l'effetto economico non va sottovalutato, perché non so quanto potremmo reggere a lungo questo embargo. Lei è convinto, cioè se dicessero ai suoi associati: sì, però se oggi non c'è l'accordo vi dobbiamo chiedere, perché questo abbiamo di fronte, un ulteriore inasprimento delle sanzioni se oggi non c'è l'accordo. Questa è la posizione ufficiale europea già preannunciata e concordata con gli americani. In quel caso come reagirebbero i suoi associati secondo lei, Guidi? Posso essere franco? Sì, deve. Credo che gli ascoltatori se lo aspettino. Credo che i miei agricoltori, i miei allevatori vorrebbero vedere risolto prima di tutto le sanzioni, perché vede, questo embargo arriva in un momento molto particolare, molto delicato per l'Italia e per tutta l'Europa, una crisi che si genera certamente al di fuori del rapporto con la Russia, ma che mette ulteriori problematiche in un periodo che ne ha già tante. In questi giorni abbiamo visto la vicenda del costo del latte, le proteste e così via, tanto per dirne una, ecco. Esattamente così. Pensiamo che probabilmente i canali diplomatici o i motivi dovrebbero, diciamo così, essere spostati su altri tipi di pressione. Allora, intanto grazie di questa testimonianza e dell'opinione franca con cui il presidente di Confagricoltura ci ha parlato della sua filiera. Non solo, come sentiremo più avanti dal presidente di Federlegno Arredo, un po' tutte le filiere italiane che esportano meno per le sanzioni la pensano così. È un'opinione abbastanza diffusa questa in Europa, del credere che le sanzioni per il containment di Putin siano, per così dire, un errore, troppo asimmetriche. Cos'è? È stata colpa della politica non riuscire a spiegare che c'è un interesse comune davvero nel containment di Putin attraverso la leva economica? Che pensa Bonvicini? Credo di sì. In effetti, in realtà, la questione appunto dell'embargo russo in vari settori ha pesato molto in tutti i paesi. Gli ultimi calcoli dicono che il danno complessivo sull'Unione Europea arrivi ai 21 miliardi di euro, e quindi è un danno consistente che non riguarda solo naturalmente l'agricoltura, c'erano ben altri settori di export e di accordi con la Russia. Va però detto, e quindi c'è stata una deficienza nella comunicazione nei confronti di settori che naturalmente guardano in senso un po' corporativo quelli che sono i propri interessi e non guardano mai gli aspetti più generali, ma va detto però in questo caso che le sanzioni hanno funzionato, perché a differenza ad esempio della piccola Cuba che è riuscita a sopravvivere per decenni, nel caso della Russia, che è un grande paese dipendente anche per le tecnologie, per i servizi e per l'innovazione dall'Occidente, hanno avuto un effetto a breve, immediato, insomma. Esatto, l'hanno avuto immediato. C'è stata anche una circostanza fortuita, se vogliamo, che oltre alle sanzioni petroli, c'è stato il calo drastico dei che sono insomma del tre quarti delle revenues pubbliche della Repubblica Federativa Russa sono esattamente sull'energia. E poi guardate, non sottovalutate, il problema è il finanziamento delle banche e intermediari finanziari, perché oggi nessun paese può vedere le banche saltare in aria. Vale per la Grecia, l'altra grande crisi aperta in questi giorni, in queste ore, ma vale anche per la Russia degli oligarchi. Allora adesso andiamo all'informazione stradale, torniamo tra 60 secondi a parlare di Minsk, l'accordo, speriamo, con la Russia e Ucraina, e altrimenti di ancora più sanzioni da pagare per minor export italiano in Russia. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati a parlare di ciò di cui siamo in attesa oggi, la possibilità di un nuovo accordo di Minsk, di pace o quantomeno armistiziale, che congeli gli scontri e abbassi la temperatura tra Russia e Ucraina. Abbiamo visto quanto ci costano le sanzioni fino a questo momento, sanzioni molto asimmetriche, pesano molto più sulle spalle europee che su quelle americane, ma insomma Gianni Bonvicini, che è con noi, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali, ci ha detto 21 miliardi. Tenete conto che 21 miliardi è più di quanto stiamo parlando per aiutare la Grecia quest'anno, perché la Grecia, grazie all'abbattimento del valore del 60% dei suoi titoli pubblici detenuti da privati, il rollover, cioè lo spostamento verso l'avanti del suo debito, ha una cifra che nel breve è inferiore a questa, ecco, quindi per avere un'idea e pesare sulle due piatti della bilancia, le due grandi crisi europee di oggi. Abbiamo con noi, sempre con Gianni Bonvicini, anche un altro presidente di un settore che sta dando, diciamo, un amaro contributo alle sanzioni, Roberto Snyder. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi. Allora, chiedo anche a lei quello che ho chiesto a Marco Guidi per Confagricoltura: quanto pesa sulle vostre spalle in termini di quota di mercato, di valore, le sanzioni dalla scorsa estate a oggi? Che vi aspettate nel caso in cui oggi non ci fosse l'accordo? Abbiamo visto che c'è una prospettiva di aggravarne ulteriormente. Ci dica, presidente. Ma guardi, noi in anni normali, parlo del 2013, noi esportavamo sul mercato russo circa 1.200.000.000 di dollari, che rappresentavamo il 10% di totale esportato dall'Italia verso la Russia. E i dati purtroppo del 2014, parlo della seconda parte del 2014, ci hanno portato a una diminuzione del 10%. Della quota di esportazione, quindi con delle situazioni veramente pesanti per alcune aziende che avevano come grandi clienti i venditori russi, quindi per noi è un grande problema. Ma anche nel vostro settore succede quello che ci ha detto per Confagricoltura Marco Guidi, cioè nel frattempo c'è un effetto sostituzione di altri paesi che non hanno dato sanzioni? Ma il nostro problema è proprio questo. Guardi, noi abbiamo il nostro problema, noi abbiamo il Salumi Worldwide, facciamo ogni anno 10 anni a questa parte, infatti ottobre l'anno scorso abbiamo fatto 10 anni dei Salumi Worldwide a Mosca, sono 10 anni che investiamo sul mercato russo, con dei risultati notevolmente positivi. È chiaro che nel momento in cui in questo momento noi non subiamo un embargo diretto sul prodotto arredamento, puntualizzare questo, sì. Però indirettamente, per causa di questioni finanziarie, trasferimenti e quant'altro, ci troviamo ad essere condizionati, aziende che hanno ricevuto ordini da clienti russi e nel momento problemi di cambio euro-rublo e quant'altro, che non hanno i clienti russi hanno detto tenete via roba e il prodotto che noi non, in questo momento non possiamo pagare, quindi anche questo è un grosso problema. Cioè, insomma, lei ha detto India e Brasile sono pronti dietro l'angolo a sostituirci se le sanzioni vanno avanti. Ma India e Brasile non è che siano dei nostri competitor, però io posso parlare della Turchia, per esempio, della Cina, per esempio, che vanno presso i nostri rivenditori, i rivenditori russi compiano i nostri prodotti e poi vanno lì e li vendono a un 40% del prezzo nostro. Quindi sa, è una situazione veramente incresciosa. Io non riesco a capire, mi permetta questa mia sfogo, non riesco a capire come mai. Se noi analizziamo per esempio i dati di esportazione dagli Stati Uniti verso la Russia 2013-2014, vediamo che nel 2013 gli Stati Uniti hanno esportato 10 miliardi e 300 milioni di dollari verso la Russia, nel 2014 10 miliardi e 400 milioni quindi di loro dollari. Hanno aumentato l'export 100 milioni di dollari in più. Questo dato ufficiale che ci dà Roberto Snyder, il presidente di Federlegno Arredo, io ringrazio perché ci ha dato anche qua, è un elemento concreto come quello che ci ha dato Guidi di Confagricoltura. Lo giro subito al vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali Gianni Bonvicini, ma quindi queste sanzioni forse non solo sono asimmetriche per il diverso peso dell'export tra Europa e Stati Uniti nei confronti della Russia, forse gli americani si sono anche organizzati per rispettarle meno ferreamente di quanto facciamo noi. Come si spiega il dato che ci ha appena dato Snyder? Bonvicini. Ma credo che in parte sia dovuto alla necessità che ci sono alcuni progetti comuni fra Russia e Stati Uniti che riguardano, dalla stazione spaziale internazionale ad altri progetti di questo tipo, che in effetti non sono stati toccati dalle sanzioni, dal tema delle sanzioni. Le sanzioni hanno riguardato essenzialmente il sistema finanziario e sono stati colpiti soprattutto alcuni personaggi, adesso alcune anche grandi banche, finanziarie, eccetera. C'è un dato molto interessante da questo punto di vista che riguarda le importazioni e in modo particolare le importazioni di petrolio e di gas. Da questo punto di vista non c'è stato nessun cambiamento fra Unione Europea e Russia. Anche che la Russia in questa fase però se rinunciasse a dei proventi anche per esportare energia col prezzo così basso in Europa si metterebbe ulteriormente in ginocchio. Evidente. E questo dà il senso che la possibilità di arrivare ad un accordo su degli interessi concreti che c'è e credo che si possa arrivarci, però per arrivare a un accordo non si può ragionare solo su questi interessi appunto di importazioni, esportazioni. No, bisogna avere una logica complessiva, una strategia complessiva. Va ingaggiata la Russia in una logica complessiva di futuro dell'Europa. Però Bonvicini, le faccio una domanda. Molti hanno l'impressione che Putin consideri l'Europa non in grado di rispondere quando lui arma, e abbiamo visto con sistemi missilistici sempre più avanzati anche in queste settimane, le milizie filorusse e minaccia di fare la stessa cosa nel Baltico e così via. Stiamo parlando di paesi NATO direttamente a quel punto. Si sbaglia davvero secondo lei a dare una valutazione di questo tipo dell'Europa, cioè al fatto che se lui forza militarmente tutto sommato l'Europa poi preferisce l'appeasement? Diciamo che dal punto di vista del confronto militare non c'è storia semplicemente perché la Russia è sul confine dell'est dell'Ucraina e secondo perché ha un esercito sicuramente molto potente per quanto riguarda gli interventi di tipo convenzionale e quindi non c'è storia. Se dovesse esserci un confronto militare chiaramente l'Europa potrebbe semmai difendere i propri confini. Sì, ma non fare più che quello, sono purtroppo molto d'accordo, ma anche purtroppo nel senso che bisogna creare una strategia appunto che eviti che sia l'escalation militare, questo è il punto di fondo. Vediamo cosa succede oggi a Minsk, attenti che l'economia italiana è molto esposta e bisogna anche capire chi, tantissimi di voi, come si dà i messaggi, sono contrari a queste sanzioni che ci espongono così tanto. Intanto continuate con Radio 24, grazie ai nostri ospiti e appuntamento come a domani.